Ciao Joe, Come long la time no butta? speak. Come la butta? Long time no speak, long time no see. Bene, bene, sono in spiaggia. Ormai ho deciso che il mio ufficio Famone. per la radio è la spiaggia. Grande. Sì. Te come stai? Stai bene? Sei in Tutto Alge? a posto, sono in Alge. Oggi abbiamo aperto tardi. Ci prendiamo sabato e domenica con calma, almeno le Ah, giusto. Che caffè? Vi facciano qualcun mattine. altro. Esatto. Vai, partiamo Vogliamo subito con la dare. traccetta. Sì, Così per mettere abbiamo subito le cose in quattro. chiaro. Esatto, 4 minuti e 11 musicali con i Blink 182, 182 Always, così riusciamo anche a fumare una sigaretta. Ale, partiti. Minuti per una canzone possono essere abbastanza, quindi al massimo Giusto. lasciamo in sottofondo leggermente mentre chiacchieriamo. Come stai? Come sono andate queste 2 lunghe intense settimane senza di me? Allora devo dire che riaprire al pubblico è stato abbastanza provante. Il polso, i bicipiti al bancone si bruciano. A furia di sollevare spritz, ovviamente culturali, perché noi siamo un'associazione culturale, quindi facciamo gli spritz Certo. culturali. Ma d'altronde ogni esperienza è più culturale, è sempre più culturale. Esatto, tu invece mi dicono desaparecido anche in tutti i sensi, come anche i Io ho desaparecidi veri, sei fatto. stato incarcerato praticamente. Sì, mi hanno scaraventato giù da un aereo nell'Oceano Pacifico, come si faceva ai bei vecchi tempi di Pinochet. E no, in realtà sono andato. C'era Pasqua ortodossa, quindi mi sono concesso il lusso di levarmi dai coglioni di Atene e andarmi a fare qualche giorno a Milos, che è una bellissima isola a 1 ora di traghetto da qui. E in realtà ho dovuto fare un po' di carte false per andare, è stata un po' una rottura di coglioni perché non ci si poteva ancora muovere, lockdown, cazzi vari, quindi ho dovuto fare delle sorte di carte false che hanno funzionato fino a un certo punto, nel senso che sono riuscito ad imbarcarmi. Poi una volta arrivato, scendo dal traghetto, tutto bello, pimpante, pimpante dicendo dai figa sono arrivato, cosa vuoi che mi succeda adesso? E proprio in quel momento un simpatico poliziotto greco mi dice: tu Ciccio vieni con me, che cazzo stai facendo qui? E ho detto: oh, guardi, sono un turista, cioè mi scusi ma mi hanno detto che io potevo ho letto sul sito che io potevo venirci qua. E lui mi fa: sì, certo. Sono un italiano qualsiasi, gli hai detto. Esatto, esatto. Non sono certo un italiano residente in Grecia. E quindi ho detto: sì, sì, certo, sto cazzo. Vieni con me in caserma, che adesso ti facciamo un bel 400 euro di multa e poi ti rispediamo sul primo traghetto per Atene. Al che mi sono giustamente cacato addosso, ma fortunatamente il capo della guardia costiera, come cazzo si chiama, di Milos, era un panzone molto simpatico che mi ha lasciato andare senza cioè, con 400 euro in più, ecco. Ma come l'hai corrotto? Gliene hai dato una parte? No, in realtà no, cioè praticamente quando entri... esatto, gli ho passato un souvlakino. No, perché praticamente quando entri in Grecia devi fare un form online. E io ho finto che ero atterrato in Grecia tipo mercoledì e che dopo l'atterraggio sarei stato un giorno ad Atene e poi una settimana a Milo. E a quanto pare, diciamo, questa cosa del viaggiare non era proprio concessa, però il fatto che avessi scritto che ero prima ad Atene e poi a Milos, per loro andava bene, perché diciamo sapevano dove cazzo io fossi. Più complicato fine... della storia di Cleopatra, fammi capire un attimo, il problema qual è? Che tu in quanto turista italiano puoi entrare su un'isola greca, ma in quanto greco non puoi viaggiare all'interno della Grecia. Bravo, esatto. Quindi, questa cosa non ha senso. Quindi il punto era cercare di fingersi il più turista possibile. E per farlo ho dovuto fare questo form e farmi anche un test antigenico per il Covid. Ma sei un tamponato? Ma sì, qua costa 15 euro, quindi ho detto: sai che c'è, vaffanculo, va bene anche per sapere se ho il Covid o no. Meglio 15 che 400, insomma. Esatto, però alla fine è stato bello, una bella 5 giorni di free camping. Bello. Sì, l'unica pecca era che l'isola era un po' chiaramente deserta perché... non c'era ancora il turismo aperto, quindi ancora lockdown, niente bar, però insomma è stato bello anche poter avere un'isola solo per noi, cioè nel senso che c'erano, non lo so, 20 turisti in tutto, cioè tutte le spiagge più famose, più fiche. Ma perché Milos è una di quelle super turistiche? È una famosa, cioè c'è un paio di spiagge che ti dico fermati, tipo questa spiaggia qua che si chiama Papafragas, che già fa ridere di suo, che è praticamente una gola che si incaglia dentro, cioè c'è un buco sostanzialmente nel suolo in cui dentro c'è il mare e per cui tu diciamo ti butti dentro questo buco ma profondo, cazzo ne so, 20 metri e dentro questo buco profondo 20 metri c'è una spiaggia che poi comunica con l'esterno con una sorta di arco di rocce, oppure queste rocce bianchissime, particolarissime, poi ci sono cave di zolfo e, insomma è un bel posto, è una di quelle isole che di solito viene presa abbastanza d'assalto e noi ce la siamo goduta completamente priva di persone. Bene, quindi dopo aver tradito l'autorità greca possiamo dire che Esatto. Oggi l'argomento è... L'argomento di oggi sono i tradimenti sotto tua diciamo spinta. Suggerenza, sì, in verità era una suggerenza di un altro ascoltatore di settimana fa. Però a me non piaceva, poi invece questa settimana mi sono ricreduto e quindi produzione sì, in latino, come si dice in greco produzione? Ma sai che non ne ho la più pallida idea perché... Spara di un nome greco idea, qualsiasi Per patao, perfetto. Che vuol dire camminare, però aspetta che la cerco che mi hai incuriosito. Vai, io intanto metto il coprofago, il famoso. Va bene. Secondo te cicuerela o no? No, comunque si dice prodosia. Quindi simile, dai. Sì, beh, non avevo dubbi, sinceramente. Non è niente per me. ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio per bene tue carezze, sì, io amo più della mia vita. Cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Ritornerò in ginocchio da te. L'altra non è, non è niente per me. Ora lo so, sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per me le tue carezze. Quest'oggi la musica non la faremo mai finire. Taglieremo tutte le canzoni all'ultimo e inizieremo a parlare, perché è una puntata lunga, lunga, lunga. Lunga, lunga, lunga. Poi possiamo sempre tagliarla a metà, ma... No, vabbè, per carità. Già l'argomento è pesante. Se è lo pesante, tagliamo anche a metà, sì. Poi... Cioè, lo tradiamo. Insomma. Eh sì. Comunque mi è piaciuto un sacco quando l'hai proposto, perché è ampio, no? Al netto di quelli... Tutti i tradimenti che sono amorosi, mi sembra interessante poi andare su tutti... Una lunga serie di idee di tradimento. Tu infatti avevi in mente qualcosa da sigla VAR. Sì, cioè, brutto da dire, sarà che rimango quell'unico ragazzo di Nazareth quale sono, però la prima cosa che ho pensato sono stati tradimenti calcistici in realtà. Tipo? Cioè, spara. Tipo, ma per me uno dei più clamorosi rimane Figo dal Barcellona, Luis Figo dal Barcellona Real, ma anche famoso scambio Inter Milan, Pirlo e Seedorf per Guglielmo In Pietro e Coco, che tuttora rimane uno dei grandi scambi dell'era Moratti. Cioè, no? Guglielmo In Pietro, se ti aggiudichi un giocatore del genere, direi che hai vinto in partenza. E beh, allora ho detto, vabbè, cioè, vediamo uno che si chiama Pirlo, ci vediamo uno che si chiama Guglielmo In Pietro, nome del merda per nome del merda. Ci a sa. Sto punto, sì. O non lo so, Kolarov dalla Lazio alla Roma con una parentesi Manchester City, però insomma... E poi ce lo siamo cuccati noi all'Inter, esatto. All'alba della sua giovane età. Esatto, beh, che rimane comunque un onesto giocatore. Come si dice, i giocatori di esperienza che servono a far crescere la squadra. Esatto, che sennò l'Inter non avrebbe vinto lo scudetto probabilmente. Infatti, tutto merito di Kolarov. Esatto, non te l'ho mai chiesto. Se lo segui, se segui il calcio, ma ho il profondo dubbio che tu sia interista in realtà. Cioè, io sono interista, Fiega, io sono interista. Fiega, certo, tu sei milanista invece. Io sono Casciavit, cazzo, popolare. Fiero solo, di Berlusconi solo presidente, per il Berlusca, solo per il Berlusca. Cioè, se avesse allenato lì, se avesse fosse stato presidente dell'Inter, sarei stato probabilmente interista. Certo. Questa è la grande... Un uomo come Adriano Galliani rimane comunque nella top 3 degli uomini più affascinanti e sexy con cui vorrei avere una cena nella mia vita. Potrebbe essere Darth Vader senza trucco. Senza la maschera. Sì. Sì, totale. E quindi questa intervista, quindi avrei festeggiato balordo. Invece no, sai, ho passato tutta la giornata a maledire tutti gli infami che festeggiavano. Perché? Ero qua che lavoracchiavo, facevo cose, poi non sono uno che se la gode molto a festeggiare come un pazzo per lo sport. Sono più, non sono molto attaccato al calcio, alle fede, non è una fede per me. Mi piace il bel calcio, ho questa cosa di essere interista, ma non conosco l'altezza, il peso, lo stipendio, la quota di ingaggio dei top player mondiali, a differenza di altri miei amici e conoscenti. Claro. E poi c'è da dire che molti miei amici interisti, questa cosa che lo scudetto l'ha vinto Conte, comunque un cazzo juventino, non so come dire, però per tutti loro, cioè, all'inizio è stato quasi un po' arrosicato. Sì, quasi che non lo volevo vincere, non so come dire. Ho detto, boh, ragazzi, che cazzo sto vincendo, 10 anni vince la Juve. Finalmente vincete uno scudetto, ma mortacci vostra. Sì, e anche se lo viene. Lo fanno apposta, cioè, comunque. Se ne prendono 10, sì, poi dicono, vabbè, dai, quest'anno stiamo tranquilli, se no poi sospettano. Esatto, esatto. In realtà erano 9, questo era no, il decimo, sì. Fortunatamente. Scandalo comunque. Madre mia, io ero convinto di arrivare in Grecia e non soffrire d'allergia, invece questi giorni mi sta inchiappettando con potenza e violenza. Ma tra l'altro è partita stratardi, cioè anche qua è partita adesso, maggio, 5 giorni a maggio. Infatti, di solito parte ad aprile, cioè metà aprile, sì, Pasqua, sì. È quel momento in cui il complotto climatico sta arrivando al suo apice. Eh sì, sta arrivando con le nostre amiche api. Ma tu hai qualche dettaglio su qualche tradimento calcistico famoso, lo famo o vogliamo... In realtà non me ne sono venuto in mente, però io penso tutte le volte a dei discorsi che faceva un mio grande amico romano, romanista, sfegatato, perché, cioè, lì dire che il calcio non è la fede è veramente come, non lo so, bestemmiare di fronte al Papa, per cui loro, cioè, sono veramente religiosi nei confronti da Roma. E lui dice, cioè non esiste che un calciatore della Roma vada alla Lazio, ma così come non esiste che un giocatore della Lazio venga alla Roma, ma perché, cioè, questo qua, se la prossima volta si gioca al derby, si piglia tante di quelle randellate in faccia che muore male. Infatti il tradimento più assurdo sarebbe stato con Francesco Totti dalla Roma alla Lazio, cioè, mamma, che cosa veniva giù, che il cosa mondo Roma, sì, in fiamme. Sì, partiva la strategia di Nerone, cioè date fuoco a questa cazzo di città. E allora, lasciamoci nelle braccia di Love Forever di Baby Rainbow, Babe, e poi Babe. Torniamo a cazzeggiare. forever, ma chi l'ha mai visto l'amore, quando lo vedrà sarà per sempre, ma se lo vedrà. E speriamo che lo troveremo tutti prima o poi, tutto il mondo lo troverà un bel giorno. Quindi niente, dopo Love Forever, questa canzone così primaverile, come non parlare del core subject di questa puntata, cioè i tradimenti amorosi. Quindi deprodiziones amorosum. Esatto. Primo domandone a bruciapelle è: ma sei mai stato tradito? Cioè, sì. Che cosa è? Sì. Presente. Next question, please. E cioè, che cos'è per te poi tradire una donna, un uomo, il partner? Insomma, lo dico giusto per includere i nostri amici ascoltatori LGBTQ+, che così non ci... Il più mi mancava, eh. Sembra tipo Skype, Telepiù, Skype più. Sì. Diciamo, è una paper per LGBT in realtà. Ci sta. E quindi che cos'è per te? È un bel casino. Di solito è un bel casino. Cioè, si complicano molto le cose. Potrei dire sicuramente questo. Emotivamente, organizzativamente, tutti i sensi, sia in amore che in altri ambiti. Mi è successo sia di essere tradito che di tradire. Ma lascio. E ne valsa la pena. Fu vera gloria. Ma devo dire che non. Niente di più, niente di meno. Niente di più, niente direi. Di meno. Lo rifaresti? Direi che è la domanda delle domande. Ma sì. Sì. Sì. È una roba interessante, lo so, io una roba che ha sempre, non so come dire, derubricato / non, cioè poi secondo me va contestualizzato, no? Cioè c'è una cosa che è il tradire, diciamo, ripetutamente, no? Allora lì non sei un traditore, sei, diciamo, un cialtrone infame, nel senso che alla fine se tu stai con una persona, questa persona o tu va a letto con un'altra, comunque si frequenta con un'altra per un anno, un mese o quel cazzo che è, direi che a quel punto non è neanche più un tradimento, cioè proprio essere un po' un pezzo di fango. No, ecco, non bisogna fare l'infame. Cioè, quello lì è proprio un po' troppo, ecco, non so come dire, quello lì sì, no, già è lo derubo da tradimento. È giusto contestualizzare, cioè, una cosa è l'infame, lì... una cosa è aver tradito... Secondo me sì, cioè. Già questa è la prima linea di demarcazione. E poi non lo, cioè, io non so, non ho idea se sia mai stato tradito. Di base penso di non aver tradito, forse niente di più che un bacio, cioè. Gesù, non penso di essere, sì, non penso quell'umile ragazzo di Nazareth, come dicevi, sì, cioè non ho idea, non neanche che, un bacio alle cose... medie. In realtà, allora, c'è da dire una cosa, che io gli do veramente una scarsa importanza. Cioè, nel senso, io credo molto fortemente nelle persone. E questo significa che per me, se tu hai la mia fiducia e io la tua, questo è quanto basta. Poi, se tu vieni da me un giorno e mi dici, guarda, purtroppo è successa questa cosa, sono finito a letto con questa persona e mi racconti il contesto, è una cosa che, verosimilmente, io giudico accettabile, perché ci poteva stare, diciamo. Tendo a perdonare, perché poi in generale... Io non riesco molto bene a mettere tipo dei punti fermi nelle relazioni con le persone, di no, guarda, te mi hai fatto questa cosa qui, io a te non ti vedo mai più. C'è da dire che, cioè, non so come dire, tendo no, a non dargli neanche io sono uno che se la prende molto, così come non sono attaccato al calcio, non sono attaccato a agli io non avvenimenti riesco a... Poi una volta forse di più. Esatto, cioè secondo mi me poi un po' di si più diventa... sì, ci si stacca, sì, un po'. Esatto, cioè ti dico, a me una delle cose che è successa, forse è stato lì la chiave di volta, adesso tipo la gelosia, come te la vivi? Io non la vivo, per esempio. Io l'ho vissuta tantissimo, tantissimo. A un certo punto, diciamo che sono stato rimesso in riga e mi è stato fatto ampiamente capire che è un po' una stronzata. E quindi adesso me la vivo molto più tranquillamente, cioè non sono più un attaccato in maniera... Io ero molto possessivo, Adesso devo dire non lo sono più, e cerco sempre di tenerla molto bassa, diciamo, come livello di gelosia. Poi quando lo faccio, perché la mia ragazza intanto mi dice, cazzo, però insomma a me piace quando sei geloso, cioè intanto che ti rode un po' il culo così mi fa piacere, e quindi ogni tanto mi succede che ti stuzzica, che, se no, più che mi stuzzica lei, magari mi creo io da solo, no, il filmino. Il nel... Sì, sì, sì, perché poi alla fine la gelosia, cioè, è una roba che tu ti crei da solo, non so come dire. Cioè, è tutto auto, tutta una pippa che ti fai con te stesso, perché... Certo, certo. Perché sì. È tutto ego riferito nel mondo della monogamia È molto ego riferita, secondo me, la gelosia. Quindi in realtà... Anche su quella io me la vivo come te, penso abbastanza serenamente. Poi c'ho i miei momenti in cui magari mi scattano i 5 minuti, o magari ho un momento di nostalgia e allora mi parte un attimo, o magari, che non lo so, uno ha paura di perdere l'altro, allora gli parte un po' quel sentimento più di gelosia, di possessione o di voglia, non so come dire. Però sì, poi come dici, ogni volta è diverso, ogni caso è diverso. Sì, molto, tutto molto relativo. A me viene in mente, una volta è successo, c'è questo esempio. Tipico. Allora, una persona sta con una persona e la tradisce con un altro. Un altro. Iniziamo a fare il gender free. Un persono sta con un persono e lo tradisce con un altro persono. Una volta tradito. Un persona asterisco. Un personisco. Una volta tradito il primo persono con un altro persono. Se poi si torna col persono numero uno, ha tradito anche il persono numero due. Ah, minchia, in effetti questa qua non ce la mai pensare, è la doppia. Cioè o tradisci e poi non succede più niente, tu hai cambiato persona, oppure hai tradito due volte. C'hai la colonna sonora? Sì, magari un ragazzo che sta vendendo le casse. Ci sta, sembra il carretto dei gelati. Sì, magari un gelato io ho comprato, le casse tiettele. E così, quindi è tutto un casino, c'è un sacco di sfumatura nel tradimento. Io ti dico, l'unica volta che in realtà, ecco, per esempio, l'unica volta in cui mi è successo, perché non so, anche lì, ad esempio, chiedere se sei stato tradito dentro un atto di autolesionismo infinito, cioè io purtroppo rimango una persona che... Dici meglio l'ignoranza. Sì, cioè io purtroppo sono così, cioè... Guarda, se è, guarda, meglio se io non so un cazzo, vivo meglio, come diceva Socrate, so di non sapere, so meglio. Però una cosa che mi è successa nella vita, che non è neanche considerabile come tradimento, da una cosa molto curiosa, ero al liceo e mi ero invaghito di questa ragazza con cui stavamo, lei era fidanzata. Allora io ho cominciato a provarci, insomma, sembrava che ci fosse del tenero. Però della favola organizziamo una vacanza con lei, un'altra sua amica e altri amici per andare insieme in campeggio, al campeggio del Giovanni di Sestri Levante. Sono io. E il glorioso campeggio Giovanni di Sestri Levante. E niente, mentre siamo lì nel campeggio, figurati, lei, io non l'avevo neanche mai baciata, per cui capito, cioè quella lì era stata costruita ad hoc come la situa, non so come dire. E poi invece sto cazzo, nel senso che Michele, il mio migliore amico, invece se ne ha limonate, poi alla fine sono stati insieme, figurati, credo 2 o 3 anni. Approfitto per salutare entrambi, ciao Michi, ti voglio sempre un sacco di bene, ciao Jules. E io l'ho vissuta malissimo, una roba che tipo alle 7 di mattina ho chiuso la mia tenda, me ne sono andato via lasciando tutti lì in braghe di tela. Per quanto mi ero preso male. E i rapporti con Michele, che devo essere una persona che voglio più bene sulla faccia della terra, per un paio d'anni sono stati veramente freddi. Poi fortunatamente, non so come dire, come si suol dire, il tempo lenisce ogni ferita, quindi poi insomma, amici per le palle, mi viene da dire. Però fu una cosa strana, quasi un non tradimento, che però mi fece veramente malissimo allora. Cioè, proprio mi ricordo la vissi male, male, male. Sono senza parole, sono distrutto da questa tua narrazione. Ho iniziato a essere geloso anch'io dopo questa e a odiare i tradimenti. Beh, quindi ci auguriamo tutti che non succeda più. Che non succeda più, esatto. Dai. Quindi Claudio Amori, dicelo tu. Claudiona. Bye. che torni alle tre e io mi addormento senza te. Eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore, ma non succederà più che dico di sì per farti contento e penso non succederà più. D'amore te ne ho dato tanto, ma non devo dartene più. E voglio pensare sempre lo sarai, la donna che ho voluto e che vorrei. Succederà che torno a letto e tu ti addormenti senza succede me. Succederà che tu d'amore non ci sei. Delay Remix del 2009 sul canale ufficiale di Claudia Mori, la Clan Celentano, il Clan Celentano. Grande tracciona questa remixata, mega zarra. Grande tracciona, grande tracciona. E beh, che puntata sdolcinata, almeno dal punto di vista delle canzoni. Prossima la voglio tipo sui mondiali 2006, o qualcosa che abbia a che fare con polpacci, sudore, Leonida e Sylvester Stallone. Dobbiamo fare una puntata. Ci sta, il tradimento più grosso forse è quello di, come si chiama, lo storpio di 300. Quello è un tradimento infame. Mamma, che infame. Quello è infame, cioè quello ti fa proprio chiedere, ma se non l'avesse fatto, ce l'avrebbero fatta a continuare a fargli il culo? Bella domanda. Sarebbe stato interessante. Poi comunque ha vinto l'Occidente, però. Vorremmo sapere come sarebbe andato. Se quei 300 impavidi spartani sarebbero riusciti a metterglielo in culo davvero fino in fondo oppure no. Che poi è un po' un tradimento da infami. Questa puntata non dovrebbe essere così sdolcinata. Dovremmo essere più incazzati, forse, e meno sentimentali. Però abbiamo capito che entrambi, cioè oddio, chiaramente se qualcuno mi dice, cioè se la mia ragazza mi dicesse, ah sì, guarda, sono finito a letto con un altro, non è che penso che andrei a mangiarmi un gelato e fare la colazione abbondante lo stesso, ecco. Però cosa fai? Piangi o ti arrabbi? Queste sono le due alternative. Credo che io sia più quello che si incazza, cioè si incazza, certo. Si fa avere le brutte ore, va a un bar, si scola le sue due o tre birrette, si fa una lunga passeggiata. Birretta poi... hai detto? Sì, in effetti spero che passi un marocchino che me ne porta uno a breve. Con la musica dentro. Sì, se la apri e parte un pezzo reggaeton greco. Che esistono tra le altre cose. Prossima puntata ne metto uno. Cosa? Le birre con la musica dentro? No, il reggaeton greco. Sì, cioè che è il peggio del peggio del peggio del peggio. Top. Sì. E te invece come reagiresti? Cioè, incazzata o pianto? Oppure incazzata piangendo. Esatto. No, o piangendo incazzato, che è diverso. Nel passato ho sempre reagito incazzato. con la voglia di non affrontare la cosa, cioè proprio chiudendo. Sì, e mentre adesso, appunto, come dicevo prima, credo che non reagirei troppo. A meno che reagire non mi porti vantaggi. La vedo un po' così, molto usufruibile. Cioè, che tipo di vantaggi? Nel senso, tipo, ok, mi hai fatto uno sgarro, quindi ho uno sgarro da farti, più o meno, no? Mica, però sei infame. La puntata degli infami, insomma. Devo fare la parte. Giusto così. La gelosia come te la vivi adesso? Non me la vivo. Non sono mai stato. Lo ma anche sempre... sei di essere un bellone oppure? No, assolutamente, anzi. Però ho sempre avuto anche eventualmente non so, il pensiero di rivali possibili, così. Però l'ho sempre vissuta come se sgarri, appunto, mi incazzo e la chiudo, quindi non è un problema comunque. Cioè, come se non fossi troppo attaccato alla cosa da dire, da soffrirci, insomma. Chiaro. Però incazzarmi e mollarti sicuramente sì. Un uomo dalle mezze misure, esattamente. Cazzo. Sono famoso. Giovanni Pizzarotto, colore preferito grigio. Non bianco, non nero. È anni che dico che sono fatto così, ma nessuno mi crede. E poi comunque c'è un'altra cosa che è un po' più ampia, che è il tradimento della fiducia. Ecco, cioè, io sono scomparso per due settimane dal podcast e tu hai detto: minchia, mi incazzo, adesso vengo in Grecia, chiudo con Jack, basta, è finita. Esatto, vado in Grecia, gli riempio il culo di Zazzichi, prendo il sole e torno. No, assolutamente no, anzi, qua mi sei mancato, se devo essere sentimentale. Però no, ecco, non so come reagirei al tradimento sulla fiducia. Poi in verità magari passerei sopra anche a quello, però forse è più grave, nonostante è più grave il tradimento di un amico, nonostante poi ci sia il famoso detto, per esempio, di non lasciare un'amicizia per una donna, cioè di non litigare per le donne tra amici, di non perdere un amico per un amore. Cazzo, potevamo mettere anche una donna per amico di Lucio Battista, adesso che mi hai detto tutta questa frase. Una donna per amico. Esatto. No, sì, assolutamente, cioè, sempre comunque dalla parte degli amici. Poi dipende, cioè, so di persone la cui donna poi alla fine si è innamorata del tuo migliore amico e tu ci rimani così, e a quel punto, cioè, ammetto che è anche difficile dire: ah sì, vabbè, sti cazzi, vuol dire che la ama veramente, rimaniamo amici. Sì, cazzi. Ecco, cioè, tutto è sempre da contestualizzare, però se, cioè, penso che la prima, il detto popolare è l'amicizia sopra l'amore, ci sarà una ragione. Sì, cioè, perché alla fine sì. E a me è successo, a me è successo di tradire un amico con una tipa, un amico con un tipo. Ma così se la prendono male i sardi, te lo dico. Cazzo, così, ma i sardi, perché i sardi sono sempre stati gender free. Sono sempre stati, sì, molto gender free. Lo sanno già. E tradire un amico con un tipo, una tipo con un amico, non mi ricordo più, e lui ha tenuto fede a questo detto popolare, cioè siamo diventati ancora più amici, forse, se me la ricordo bene, mentre ha sdegnato male la ragazza. E io mi sorpresi di questa cosa. Sì, io mi sorpresi di questa cosa, anche perché magari erano comunque, si vedevano scintille tra di loro, invece bam, troncato male, e noi due amici. Che poi c'è anche dal tuo punto di vista, che è quello dell'infame, in realtà una roba del genere, se ti succede, poi dici: minchia, allora questa qua è una persona, non so come dire, a cui tutto sommato gli voglio ancora più bene, perché ha questa capacità qua, lo stimo ancora di più, possibilmente non gli farai stimpamata, mi auguro. No, non mi permette. No, però appunto si passa da tradimento a infamia. Sì, esatto. No, però, cioè, per dire che se uno fa una cosa del genere, secondo me poi mette quasi le basi per un rapporto poi più profondo con l'amico. Sì. Poi cioè, noi stiamo qua a dire il tradimento in famiglia, ma in verità i puristi del tradimento sanno che appena si tradisce si è infami. non ci sono mezze misure, sono tutti come, come me, gli piace il grigio in teoria, ai puristi. Sì, sì, sì. Però vabbè, noi per scusarci da soli, diciamo che tradiamo, che poi rimane una di quelle. Fa ridere perché siamo come al solito due uomini bianchi e occidentali a discutere di queste cose. Sarebbe stato interessante forse includere anche due donne in questa puntata. Magari faremo fare una puntata a due donne a riguardo, così potremmo nere scrivere... orientali. Sì, esatto, di Bangkok possibilmente. Dei ladyboy di Bangkok, per avere un punto di vista un po' più esotico. No, però potrebbe essere un'idea. Esotico come caribou? Esotico come caribou, assolutamente. The Milk of Human Kindness è l'album? Può essere. Penso di sì, il pezzo si chiama Bees. Ok. E ha un attacco molto molto figo, dura un sacco, quindi ti auguro di tagliarla a 3 minuti. Dimmi tu, poi vediamo. Sì, sì, sì, troncala senza... Anche perché a un certo punto gli parte un po' quella roba alla Hey Jude dei Beatles, per cui spagiolano in maniera brutale, quindi... Arrivati ai 3 minuti in punto, la non passa allo stile Jude, come dici tu. Sì, alla sfagiolata finale. Tradimenti letterari? Tradimenti letterari, cioè a me è un'altra roba dopo il calcio, perché no, poi parlare sempre di amore, tutte queste cose, sì sì, bello, abbiamo inventato Maria De Filippi un po' anche per questo. E quindi la seconda cosa che mi è venuta in mente in realtà sono i tradimenti letterari, cioè tutta la... Cioè, qual è il tradimento letterario? Per esempio, dico tradimento alla letteratura, dici, minchia, a me è questo tradimento qua, ma ci sono rimasto malissimo, cioè, una storia incredibile. Ce n'è uno che dici, wow, che roba. Allora, no, assolutamente no. posso pensare ai demoni di Dost. Di Dost, che purtroppo non ho avuto il tempo di leggere perché ero troppo occupato a leggere 50 sfumature di grigio. È giusto, però è tipo un complotto dentro un complotto dentro un complotto. In sì, cui sì, sì, sì, quello è un bel libro sui tradimenti. Esatto, e tutti si tradiscono. E alla fine, secondo quello che ho colto io, perché poi in verità è un mappazzone così, secondo me non l'ho capito fino in fondo. Però a parte le sfumature di malvagità nell'uomo, questi tradimenti letterari nei demoni sono uomini che creano un'idea e poi la tradiscono, magari l'idea della rivoluzione in questo caso. No. La tradiscono, ma poi vengono comunque, diciamo, inculati perché la rivoluzione avviene comunque. Loro lo facevano quasi senza sapere delle loro conseguenze. Esatto, non se l'aspettavano anche loro. Esatto, hanno messo in giro questa idea della rivoluzione e alla fine tutti ci hanno creduto e loro hanno tutti preso nel culo. Gli sta bene. Detto così, a me no, a me il primo che mi era venuto in mente era il buon Ulisse, cioè alla fine il buon Ulisse, no, cioè sì, chi ha tradito detto, più certo, di lui, cioè. L'abbiamo detto anche in un'altra, nella prima puntata sulla Grecia, eh sì, cioè quanti Ulissini avrà lasciato in giro per il Mediterraneo il nostro caro amico di Itaca. Se andiamo a vedere siamo tutti discendenti di Ulisse probabilmente. Probabilmente sì, cioè ancora poco si scopava pure il ciclope, il boccaccio disse, quindi c'era solo una pecora di mezzo. Esatto, e qui la discendenza sarda, non ce ne vogliono male i nostri amici sardi che ci ascoltano, di Ulisse è emersa. E no, sì, comunque sia a me Ulissu e io di Gonos fanatico. E no, il buon Ulisse sì, che poi cioè, c'è un po' tutta questa idea del, cioè in realtà è un tradimento molto interessante, no? Perché è il tradimento forse dell'idea di casa, perché lui piglia, comunque dice beh, posso tornare a casa subito o tra virgolette trovare me stesso. Poi l'altro giorno ho avuto una discussione lunghissima con la mia coinquilina che riassumerò nel fatto che lei sostiene che Odissea sia un libro molto molto macista e che tutto sommato non sia del tutto falso come posizione. Io dalla mia dico che giudicare un libro di 4000 anni fa con i nostri canoni odierni è sempre un po' difficile, un po' riduttivo, ecco. Giulio Cesare era un fascio. Giulio Cesare era un fascio, esatto. Per dire, cioè, Hitler era vegetariano, mo, vegetariano di sto mondo, come la mettiamo? Però è tutto un libro su un lungo tradimento della casa, sul trovare se stessi attraverso molte sfide, attraverso molte cose, per poi scoprire che alla fine di tutto questo viaggio in realtà l'unica cosa vera è forse l'idea della casa, la figa, troppo sì. E quindi torna, anche se è una lunghissima storia di tradimenti con la maga Circe e con chi altro. Ma con sì, chi altro, si è divertito fin quando ha voluto e poi è tornato a casa. Esatto. Non c'è altro modo di interpretare. È arrivato in tempo per la cena. Esatto. Giusto in tempo. Giusto in tempo. E, vogliamo fare anche un augurio alle mamme che ci ascoltano. Ciao mamma, tanti auguri. Ciao mamma, fatta madrina, sorveglia su tutte le mamme e su tutti i programmi radio. E su tutti i programmi radio. Se ci senti, la mia ragazza dicendole che non l'ho mai tradita, così faccio anche questa mossa un po' paracura. Grande, neanch'io. Ma comunque molto sentita. No, scherzo. Ciao Cami. E cosa ci abbiamo adesso? Io pensavo di fare un pezzo su Cleopatra. Ah, Weyla. Però devo tipo vomitare parole perché ho scritto due pagine. La madonna. La versione corta? La serie Netflix di questa cosa? E questo è il riassunto già, capito? Tu non hai idea della storia di Cleopatra. Vabbè, io poi non l'ho neanche mai riletta, quindi sarà sicuramente una boiata. Però io inizio, poi al massimo tu mi zittisci. Ti stoppo dopo 3 minuti. Esatto. Allora, per quanto riguarda i tradimenti, citiamo sicuramente Cleopatra, i vari Cesari, re, imperatori, che si è schiombata. La storia è molto interessante, ma purtroppo complicata. Potremmo infatti parlarne per ore e non capirci niente, anche perché in quel tempo si chiamavano tutti Cesare, tutte Cleopatra e Tolomeo, e senza un diagramma come quello che racconta la storia di Beautiful non ci si capirebbe nulla. Ma anche con il diagramma, Proviamo velocemente, giusto per ridere, a fare un riassuntazzo brutto dei complotti di potere e di amore ai tempi di Cleopatra. Come detto, sono tutte Cleopatra, infatti lei in verità è Cleopatra VII, dinastia tolemaica. Inizia correggendo con il padre Tolomeo XII, poi con il fratello minore Tolomeo XIII, poi con un altro fratello Tolomeo XIV, poi con Tolomeo XV, che completo, per far più confusione, si chiamerebbe Tolomeo XV Cesare. Una delle tre figlie si chiamava Cleopatra, vai a sapere chi è il padre. I due figli, come i fratelli Tolomeo XIII e XIV, perché era troppo semplice, se no. Per aiutare andiamo alle radici dell'albero genealogico, troviamo Cleopatra prima e Tolomeo V, ma in effetti anche i loro fratellastri Tolomeo di Cipro e Cleopatra Berenice, ma anche Tolomeo IX, il nonno. Madre ignota, padre Tolomeo Aulete, amico dei triumviri, e anche lei era molto amica dei triumviri, tra cui vabbè Cesare, ma anche infatti Pompeo, ma amica anche di Marco Porcio Catone, nonostante abbia fatto suicidare uno dei vari Tolomei fratelli. Insomma, attorno agli anni 50, avanti Covid, la popolazione di Tolomei e Cleopatra nel mondo si dimezza, diventando specie a rischio estinzione, causa avvelenamenti vari, tradimenti, ripicche, suicidi reali e simulati. E si sa, in tempi difficili ogni Tolomeo va bene, quindi si vuole sposare il fratello, Tolomeo XIII, bambino di 3 anni, ma lui gli dà buca. Ma serio? Lui le dà buca, dall'alto della sua infanzia. Per giocare all'ego. Esatto. Allora inizia a farsi chiamare divina amante del padre, Thea Philopator, che nel frattempo era noto, era morto, quindi pure necrofila. Poi però trova di nuovo Cesare, o meglio Cesare si prende tutto l'Egitto e prende pure lei, mentre Tolomeo XIII lo piglia in quel posto perché ha ucciso Pompeo, e anche se era giusto era sbagliato, quindi a Cesare ora gli sta più simpatico Tolomeo IV, ma non eravamo a Tolomeo XIII, vabbè. Comunque, intanto Cleopatra è incinta e nasce Cesarione, che in verità vuol dire piccolo Cesare, non grande Cesare, che comunque per intero si chiama anche lui Tolomeo Cesare. Nel frattempo in Egitto non va tutto benissimo, allora Tolemaide di Tebaide fanno costruire un tempio a Iside. Boh, cosa c'entra? Chi lo sa. Gli anni 40 furono difficili, così Tolomeo XV Cesare sale al trono all'età di 3 anni, dopo che Cleopatra assassinò Corveleno Tolomeo XIV. Sono tornati ad Alessandria, e qui mi interrompo, perché... Ma che storia, cioè... Madonna. Questo è l'inizio della storia enciclopedica della vita di Cleopatra. Ma questa non è l'albero genealogico, questa è la tabellina di Cleopatra, comunque, con tutti sti cazzo di numeri. Tolomeo. Cioè, pazzesco. Comunque questi erano grande... gli anni 40 e arriviamo fino a Marco Antonio, quindi ce n'è. Poi, scusami, lei si schiomba anche Ottaviano a un certo punto. Si schiomba tutti. Tutti, cioè, tutti. Esatto, tutti, grande, così si faceva. Ci sarebbe da contrapporre anche un uomo, perché poi sembra che facciamo queste trasmissioni così maschiliste in cui mettiamo... Cleopatra. Esatto, che poi in realtà è... E quindi, però non mi viene in mente nessuno se non il buon vecchio Casanova, che in realtà però... poi viene utilizzata con accezione positiva, quindi non tanto bene. È la solita diatriba. Se, sì, se sei uomo sei un genio, se sei donna sei porca, esatto. E così via. Purtroppo, beh, dai, hai citato Ulisse, grande traditore. Ulisse è grande traditore. Ulisse è grande traditore. Macista. Infatti, un macista decisamente. E l'altro grande tradimento che mi era venuto in mente è quello della società. Poi, cioè, tu ti sei mai sentito tradito dalla società? Cioè, che dici, non so se ti è mai capitato quella brutta sensazione che arrivi a casa e ti è successa, non lo so, una cosa burocratica o anche semplicemente un abuso di potere di un poliziotto che ti ha rotto troppo il cazzo perché avevi due canne o sai il cazzo cosa, che ti perché fa tornare a casa e dici, minchia, bravo, esatto, che ti fa dire minchia che mondo di merda, perché esistono, per dire, le nostre amate forze dell'ordine, o perché esiste la burocrazia, o perché, insomma, quando ti senti proprio svuotato che dici che schifo lo Stato, che schifo io la società, sono nato con sociali. Questa sensazione me la porto dentro tutti i giorni, in verità credo che è per questo che stiamo conducendo la trasmissione L'ora del complotto, perché siamo costantemente traditi dai complotti sociali, statali e globali, e quindi ci sentiamo dentro il bisogno di di dirlo. Direi proprio di sì, direi tosto, proprio tosto. Di sì. Il tradimento sociale è brutto, cioè quando ti senti proprio di non appartenere a, no, alla, a un qualcosa che dovrebbe essere un bene comune. Sì, e vorresti anche, perché un senso di appunto di comunità è importante, eppure non puoi avercelo a meno che tu non riesca a creartene una di comunità, diciamo, o di essere abbastanza bravo da accecarti per parteciparne nonostante tutti i tradimenti. E quindi sì, è una grave piaga nei nostri tempi, secondo me, che dagli anni 80 a oggi distrugge il senso di comunità nei giovani. E poi figurati, cioè adesso, no, niente, scusa, mi stavo per tirare in mezzo il COVID, ma vaffanculo, noi non ne parliamo, quindi ciao COVID, ci vediamo la prossima volta. Noi Berlusconi oggi abbiamo citato il COVID, ci passiamo a fianco e ciao Petto. E subito. Sì, sì, sì, tipo Neo con i proiettili in Matrix, mi sono sentito. E no, a questo proposito volevi citare Martin Eden, mi sa. Sì, tu l'hai mai visto? Io ce l'ho avuto sul comodino per un po', ho provato a iniziarlo e poi ho detto no. È un gran libro. Lo so, però non sono riuscito a iniziarlo proprio, cioè non mi sembrava. Sono un grande amante di Jack London, per me rimane una di quelle cose che dico, vabbè, per me sei un po' il più boss di tutti. Lui fulminato, fu minatore d'oro nel Klondike, fu uno dei primi surfisti nella storia, perché anche marinaio, per cui se ne andò in Papua Nuova Guinea, la faccia, la sapete che c'ha, io qua c'ho l'occhio buono, faccio surf, il Klondike ve lo stroncate nel culo. E scrisse anche dei grandi libri, era un alcolizzato perso, e Martin Eden in realtà è anche un po' una sorta di autobiografia, e perché appunto parla di questo marinaio povero, sfigato, però si innamora della bella donna però dell'alta società, perché in realtà salva la vita al fratello da due altri marinai che gli volevano menare, salva la vita al fratello, allora per ringraziarlo lo invitano a pranzo nella casa nobile della famiglia, lui conosce lì lei, si innamora, però capisce che c'è questo fattore culturale, per cui diciamo questa cosa di due società diverse che non si riescono a comunicare, e all'inizio riescono ad amarsi, però poi lui capisce che non si può fare, perché lui è povero, e allora gli viene in mente la balzana idea di dire, io spinto dalle forze dell'amore, sapete che c'è, io scrivo. Allora comincia a scrivere, si impegna, cerca di fare di produrre, chiaramente non ottiene un cazzo di nulla, e lì c'è tutto il suo sgomento, e poi però piano piano viene prodotto, finché tutte le sue opere vengono pubblicate, e a quel punto la famiglia di lei vuole che lui si sposi anche lei, dice, ah, ma io ti amo, io ti ho sempre amato, sei tu che non me l'hai mai lasciato dimostrare. Lì c'è un po' la grande lezione, la grande frase che secondo me si porta dietro quel libro, perlomeno dicendolo alla fine, a metà dell'Ottocento, quindi in tempi un po' meno sospetti, e comunque una frase che fa sempre bene sentirsi dire, che è quella di, se non c'è un cazzo è molto verosimile che nessuno ti darà niente, mentre invece se c'hai tutto non ti preoccupare che un piatto di pasta e le porte aperte saranno, le troverai sempre, che è un po' anche la lezione del capitalismo, no? Cioè, se c'hai i soldi te li prestiamo e possibilmente li fai anche più velocemente, se non ce li hai verosimilmente diventerai più povero e ti portiamo via anche la casa e tante altre varie sgradevoli declinazioni di questa frase applicate a tantissimi aspetti della vita, anche al lavoro, quando c'è il lavoro che ti offrono il lavoro, giorni, sì, ti dicono, ah minchia, ho visto la sua pagina di LinkedIn, stupenda, la voglio, non è come la ciccio, ho cambiato il lavoro 2 mesi fa, che cacchio vuoi dalla mia vita, devi svegliare 2 mesi fa, e invece niente. La famosa storia, sempre per ottica tradimenti in cui siamo stati oggi, che è la famosa frase che ci diciamo da quando, penso tutti si dicono quando hanno 14 anni, che quando sei fidanzato, gli uomini o le donne, insomma, quelli di sesso opposto uguale, secondo l'orientamento, insomma, chi più chi meno ti salta addosso, mentre invece quando sei da solo nessuno ti s'incula, che è un'altra grande famosa declinazione di questo concetto, direi. Sì, è l'aura di potere sociale che si assume avendo già la cosa desiderata, insomma. Sì, ed è assurdo quanto influenza, cioè quanto crei della gravità in questo senso, non so, della gravità, cioè che modifica proprio un tessuto sociale. Sì, ci sono diverse leggi karmiche o spirituali che prevedono queste cose. Una massiva accumulazione di sfiga quando sei già sfigato, esatto. E una irrilevante quantità di fortuna quando non ne hai bisogno. Campi gravitazionali della sfiga. Sì. The Magician adesso... o... The Magician con di Andy Schauf. Yes. Chef. E allora via con la psichedelia. Tutti psichedelici. la malinconia riprese il posto sull'incazzatura con questa traccia. Eh sì, una bella malinconichina questa. Oggi tutti i pezzi malinconici testanzuali, però insomma, che ci vogliamo fare? Che ci vuoi fare? Ultima serie di tradimenti di cui ci occuperemo oggi sono i tradimenti quotidiani, o meglio, quelli indotti dal marketing. Quotidie predizioni. Esatto, il quotidie murmur delle predizioni. Esatto. E cioè, tipo io da milanese mi sentivo male quando andavo al Lunes invece che all'S lunga, perché papà Caprotti o mamma Caprotti ci hanno cresciuto, no? A pane offerte meno 30%, a zucchine piene d'acqua. Dovremmo sentirci traditori quando andiamo all'S lunga piuttosto che al fruttivendolo. Ah, sì, a conduzione, sì. Familiare dal 1950, fallito appena aperto l'S lunga. Forse ha fallito perché metteva le pesche a 10 euro al chilo e magari poteva anche morire di fame. Guarda che ti vuole salutare la Lovia. È tutto un complotto. Ciao Viola, ciao Lovia. Dice che è un complotto. Ciao. Ciao, ti aspettiamo per una puntata. Anzi, potreste fare la puntata sui tradimenti tu e Giulia? Per sentire la voce di due pulzelle a riguardo. Ah, sì, però la prossima facciamo i tradimenti 2? Stiamo facendo i tradimenti 2. Ci sta, ma se facessimo una seconda dei tradimenti la fareste tu e Giulia? Sì, dici di sì. A posto. Sì. Ottimo, ottimo. E la carbonara? La carbonara? Che c'entra sempre la carbonara con i tradimenti? Tu non ti la senti che la tradisci quando, ahimè, compri la pancetta al posto del guanciale? Devo dire che sempre più spesso di recente, sì. Cioè, capisci. Una volta ero ignorante, vivevo nell'ignoranza, quindi non era un problema. Adesso, sempre adesso di sì. Che sai. Ma adesso poi ancora peggio, poi io sono di parte, essendo un po' di famiglia parmigiana, quando uso il grana al posto del parmigiano ho delle gravi fitte di tradimento. Dolore. O quando qualcuno dice grana al posto di parmigiano, guarda, mi sento tradito io. Sai che non so se io dico grana o parmigiano. Grana è troppo più corto e commerciale, vince sempre. Sì, è comodo. Adesso altri tradimenti, a me è una roba che, oppure quando tradisci anche la ricetta come sempre è stata fatta in famiglia di un qualcosa e... Per causa di forza maggiore fai una ricetta in un altro modo e dici vabbè, mettiamoci 3 cucchiai di zucchero nel ragù. Vediamo cosa succede. Esatto, mettiamoci un po' di teriyaki dentro questo pesto buono. questi tipi che poi in realtà è proprio una cosa di marketing, no? Che ti fanno sentire che tu appartieni a quel prodotto, se lo tradisci sei un pezzo di fango. Sì, cioè, se tu... Ma è come tradire Corleone, cioè non si fa anche le ricette, non si fa. No, infatti ti dirò, a me succede un po' col caffè. Ci sono affezionatissimo tipo alla Kimbo e alla Lavazza. Io la Lavazza, sì. Pubblicità. Cioè, non mi schiodo. Sì. Lavazza, prego 100 euro per questa pubblicità, grazie. Allora, io suggerirei un po' di titoli, nel caso uno diventasse malinconico. Agatha Nino Ferrer, poi c'è Napule di Ricky, La mala femmina di Roberto Murolo, The First Cut is the Deepest di Yusuf Cat Stevens, poi c'è I'll Take Care of You di Joy Bonamassa, poi c'è E Dio tra di voi di Franco Battiato, Pazza idea di Patti Pravo, Innocenti evasioni, Pezzaccio. Comunque bella e Mi ritorni in mente di Lucio Battisti. Aspetta, che poi fermo, mi hai fatto venire, mi hai aperto un vaso di Pandora, che c'è quella canzone stupenda di Vaso di lui, sì, di Vaso Battisti. Di Vaso Battisti di Pandora Lucio. Esatto, di Lucio Battisti, che c'è lui che acchitta tutta la serata. Il salame. Che sta arrivando. No, che lui acchitta tutta la serata. No, non è il salame. Ah no, è Innocenti Evasioni. È Innocenti Evasioni, che c'è anche un po' una conduzione un po' porno come sound. Quella certo. Ok, sì. Lui sembra un po' una colonna sonora soft porno. Esatto, lui acchitta tutta la serata, che è bello, e poi in realtà... Che sensazione arriva... di sanare follia. Minchia, che pezzo. L'anima mia. Amore. Amore. Ne bevi dal cuore. Che pezzo. Adesso lo metto in spiaggia. Ma la storiaccia. Quello è, avremmo dovuto mettere. Se vuoi, guarda. Tanto ci manca. Ci manca Summer Skin Shape, ma possiamo fare. Siamo liberi, insomma. Sì. Scacchiamola e mettiamo Innocenti Evasioni. Scacchiamola e mettiamo Innocenti Evasioni. Io ho finito anche con la lista, c'è poco più. Qualcuno dice anche di citare Madame Bovary, ma nessuno l'ha letto al liceo perché era una pizza mortale. Io l'ho letto ed era una pizza mortale. Troppo borghesia, troppo borghesia. Sì, un po' troppo. Innocenti. Cioè, bellissimo, però. Anche bene. Che sensazione! Che mandiamo Innocenti Evasioni nel Mesemi. Ah, bene. Ciao Gio, ciao, ti mando un bacione. Abbracci. Alla settimana prossima. A presto. Ciao. Ciao ciao. Sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia, immaginando preparo il cuscino, qualcuno è già nell'aria, qualcuno sorriso ingenuo e profumo, il giradischi, le luci rosse, poi champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Accendo il fuoco e mi siedo vicino, qualcuno stasera arriva, qualcuno sorrido intanto che fumo, ma come mai? Sai, non potrei, non aspettavo, ti giuro, nessuno, strana atmosfera, ma cosa dici, mia cara, non sono prove, no, no, un po' di fuoco per scaldarmi un po' e poca luce per sognarti, no. Sediti qui accanto, anima mia, ed abbandona la tua gelosia se puoi. Combinazione o un po' di champagne se vuoi, amore. Come sei bella, amore. Sorridi e lasciati andare. Chi può bussare a quest'ora di sera? Sarà uno scherzo, un amico, e chi lo sa, non alzarti, chiunque sia si stancherà. Amore, come sei bella, amore, ho ancora un brivido.